Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius. Ciao Chiara, allora tutti i Nobel che ci riguardano, cioè quelli scientifici, medicina, chimica e fisica, abbiamo tre giapponesi, speriamo di avere una buona pronuncia. A proposito di chimica, siamo circondati, ecco, dalla sveglia, alle bistecche alla brace, fino al Viagra, ce lo racconta un saggio appena uscito. E poi la tecnologia delle banconote, cioè come renderle sicure, non falsificabili, sempre meno falsificabili, ecco. Partiamo con i Nobel. Come si fa a sapere se avete vinto un premio Nobel? Ricevete una telefonata. Oh beh, vi chiamano, non vi preoccupate, lo saprete. Qualcuno ve lo dice. No, vabbè, dai, no, la cosa più rapida è una telefonata, effettivamente. Eh beh, certo. Anche perché... Che se tu stai dall'altra parte, per esempio, del mondo, in California, tipicamente ti arriva alle 5 del mattino. Adesso come adesso, forse un WhatsApp o una mail, forse sarebbe anche più efficace. Più efficace. No, adesso, a parte gli scherzi, lo sappiamo tutti, settimana di Nobel, ne parleremo qui a Mebius ampiamente. Partiamo con il Nobel per la medicina. Abbiamo deciso di raccontarvelo nostro modo, come sempre, quindi prima di commentare la notizia sentiamo, direi, la telefonata. Qui abbiamo Adam Smith, che è del comitato dei Nobel, che contatta la figura femminile, ecco, di questo Moser. Terzetto. Ricordiamo i nomi per la precisione. Maybrit Moser, Edward Moser e poi John O'Keefe hanno preso il Nobel per la medicina. Dopo vi diciamo esattamente qual è la motivazione. Sapete che Maybrit Moser e Edward Moser sono marito e moglie, quindi sentiamo prima lei. Hello, Oh, hello. This is Adam Smith calling from NobelPrize.org. First of all, many congratulations. Ecco, qui Adam Smith si presenta, dice, ecco, sono del Nobel, e gli dice ciao, complimenti per il premio, e poi gli dice subito, gli chiede subito, ma quando ha ricevuto la telefonata dell'assegnazione del premio, come ha reagito? Che cosa stava facendo? E lei dice che era in una riunione, alla mattina di solito hanno una riunione in tutti insieme, anzi ce n'erano due di riunioni e tra una e l'altra stavano discutendo anche in modo molto animato, da quanto sembra, le è arrivata la notizia di questo Nobel. Ecco, poi lui ovviamente le dice, caspita, un'emozione così forte, cosa ha provato in quel momento? Ecco, lei sta proprio dicendo adesso, l'unica cosa triste in un giorno così è il fatto che mio marito Edward in questo momento è in volo, quindi qui noi sappiamo tutti del Nobel e lui non può essere raggiunto da questa grandiosa notizia. Ecco, qui è molto buffa, insomma, questa cosa per cui appunto i coniugi che erano separati, lui era in viaggio di lavoro e quindi non si sono potuti sentire al telefono per annunciarsi a vicenda la vittoria del premio, e lei l'ha saputo prima, tanto che ecco la telefonata di lui, di Edward Moser. Hello? Hello, my name is Adam Smith, calling from NobelPrize.org, the website of the Nobel Prize. Ecco qui il solito Adam Smith, si presenta, gli dice, allora, ha sentito le notizie di oggi, complimenti per il premio. E lui dice, beh, certo, sono appena atterrato dall'aereo, non capisco più nulla, ho ricevuto 150 mail, 75 messaggi, c'era qualcosa nell'aria che non andava, e poi piano piano ho capito, ho visto le telefonate, ho visto i messaggi e ho capito, questo è tutto assolutamente fantastico, ma Adam Smith gli chiede, è riuscito a parlare con sua moglie, insomma il premio l'avete vinto entrambi, e lui dice, no, ho provato a chiamarla tre volte e non riesco a prendere la linea, quindi spero mi richiami il prima possibile. E poi allora c'è Adam Smith che dice, guardi che io sono stato così fortunato da sentirla a pochi istanti fa, quindi Adam Smith l'aveva sentita prima nella telefonata che abbiamo appena sentito, e quindi dice, stia tranquillo, è felicissima, l'unica cosa è che ha questo velo di tristezza perché non è ancora riuscita a chiamarla, la chiami loro. Subito sì. La cosa singolare è che questi messaggi evidentemente che lui ha ricevuto sono stati tutti messaggi del tipo bravo, congratulazioni, eccezionale, ma nessuno ha detto Nobel, quindi lui ne ha ricevuti. Beh, ha capito che c'era qualcosa, cosa che non andasse, ma comunque, anzi che andasse troppo bene. Va bene, abbiamo capito che stiamo parlando del Nobel per la medicina del 2014, la motivazione ufficiale è stata assegnata alle scoperte sulle cellule che costituiscono un sistema avanzato di posizionamento nel cervello, e noi con chi ne parliamo? Giorgio Vallortigara, buonasera Vallortigara. Buonasera a lei, ascoltatori. Direttore del CIMEC, che è il Centro Interdisciplinare Mente e Cervello. Vallortigara, la definizione che è circolata di più è quella del GPS nel cervello. Ci domandiamo se è esatta, se è corretta. Beh, in parte corretta, soprattutto per quello che riguarda il lavoro compiuto dai coniugi Moser, e diciamo è corretta dal punto di vista speculativo, cioè si immagina che l'insieme di questi neuroni presenti nel cervello costituiscano un po' l'analogo di un sistema GPS, però in realtà i vari tipi di neuroni fanno cose un po' diverse e per alcuni non abbiamo le idee completamente chiare su che cosa facciano esattamente dal punto di vista funzionale, dal punto di vista del comportamento. È stata studiata un po' come avviene la comunicazione tra queste cellule che poi creano, come dire, una mappa, un sistema di orientamento nell'ambiente, nello spazio. È un po' questa la cosa? Sì, fondamentalmente la scoperta iniziale è stata quella di John O'Keefe nel 1971, no? E l'esperimento è relativamente semplice: si prende un ratto, di solito questi esperimenti sono condotti sui ratti, e lo si lascia esplorare un piccolo ambiente, una stanzetta, un'arena, qualcosa del genere, e nello stesso tempo si registra da un neurone, in questo caso dell'ippocampo. E quello che si scopre ad un certo momento è che quando il ratto passa per una particolare zona dell'ambiente, un posto, un luogo, supponiamo un particolare angolo, il neurone mostra un aumento nella frequenza della sua attività, cioè scarica di più. E questo indipendentemente da dove l'animale, da come è localizzato, quindi che il ratto abbia la testina che guarda verso la superficie della stanzetta o dell'arena, oppure che guardi verso il centro, che si stia muovendo verso destra, verso sinistra, non importa. C'è una piccola zona, un'area che noi chiamiamo place field, campo recettivo, chiamiamolo così, all'interno della quale il neurone risponde con un incremento nell'attività di scarica. E dopo questa sono state osservate delle altre cellule successivamente, pure molto interessanti. Per esempio, ce ne sono alcune che rispondono quando il ratto è in prossimità di una superficie, lì c'è una parete, un bordo di qualche tipo, oppure eventualmente anche un precipizio, cioè il pavimento si interrompe. E allora quando c'è quella zona lì nell'ambiente, una particolare classe di cellule aumenta la sua attività, segnala c'è un bordo. E poi ce ne sono alcune che rispondono sulla base invece della direzione del capo dell'animale, queste si chiamano head direction cells, quindi cellule che hanno un'attività che è massima quando l'animale è orientato in una certa direzione nello spazio. E poi ci sono queste ultime davvero sorprendenti che hanno scoperto nel 2005 in coniugi Moser, che funzionano così: si prende il solito ratto, lo si mette in una stanzetta, in un'arena, e lui si mette a muoversi e la esplora. E ci sono delle cellule questa volta che aumentano la frequenza di scarica in un modo tale per cui riempiono come una specie di tassellatura regolare, esagonale, l'intero ambiente. Quindi il neurone non risponde per una precisa posizione, non risponde neanche a caso, ma mostra dei picchi di attività che sono localizzati secondo una geometria regolarissima e bellissima da vedersi, se avete visto alcune delle immagini, insomma, di queste registrazioni. E questo sistema si pensa che sia una specie di sistema attraverso il quale il cervello tiene conto degli spostamenti dell'animale, della direzione degli spostamenti nel tempo, forse fa qualcosa di simile a una specie di triangolazione, no? Prepara una mappa, una specie di metrica di tutto l'ambiente, e questa viene tenuta nel cervello, viene letteralmente tenuta, perché se per esempio la luce viene spenta e l'animale sta al buio, le cellule comunque continuano a rispondere in quel modo lì. Quindi evidentemente utilizzano il movimento, la direzione di movimento e le variazioni angolari per formare questa specie di mappa. L'analogia col GPS è in un certo senso ragionevole, no? Cioè i sistemi GPS si basano sul fatto che ci sono dei satelliti che girano attorno alla Terra, e poi viene fatta un'operazione di triangolizzazione o di trializzazione, come si usa dire. Si pensa che il sistema delle grid cells faccia qualche cosa del genere all'interno del nostro cervello. Valor Tegara, stia con noi, adesso ci orientiamo ma nel traffico e poi riprendiamo questa chiacchierata. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torniamo a parlare del premio Nobel che per la medicina che è stato assegnato a ricerche sull'orientamento nello spazio da parte degli animali, su questa definizione animali. Allora adesso ci arriviamo subito. Ne stiamo parlando con Giorgio Vallortigara, direttore del Centro Mente e Cervello di Rovereto. Dicevamo... Animali, anche noi siamo animali. Certo, perché abbiamo parlato poco fa appunto degli esperimenti, delle sperimentazioni sui topi. Ecco, la cosa che deve essere chiara è che non è una capacità esclusiva dell'uomo quello di sapersi orientare, di poter appunto muoversi nello spazio, ma come sappiamo molti animali lo sanno fare e anche meglio di noi. Assolutamente, certo, la capacità di orientarsi nello spazio è un'abilità assolutamente fondamentale per la gran parte degli organismi biologici, viene fatta in molti modi diversi, nei diversi gruppi tassonomici, ma per quello che riguarda i cosiddetti vertebrati superiori, insomma i mammiferi, gli uccelli e quindi anche la nostra specie, si pensa che il meccanismo sia fondamentalmente comune, sia legato a questa struttura che si trova nell'ippocampo o vicino alle aree ippocampali. È interessante osservare che in effetti l'evidenza per quello che riguarda gli aspetti neurofisiologici è stata ottenuta nei ratti dal laboratorio e poi successivamente sulle scimmie, e per quello che riguarda la nostra specie è un'evidenza solamente indiretta. Ecco, questo è un punto, Vallortigara, cioè ci rendiamo perfettamente conto delle nostre capacità di orientarci, anzi ci sono delle differenze tra di noi, c'è della gente che si perde appena girato l'angolo e invece altri che sono capacissimi di muoversi molto rapidamente in uno spazio appena conosciuto, però noi non sappiamo se il meccanismo individuato negli animali, quindi medesimo, nelle cavie, è lo stesso. Verosimilmente lo è, però. Verosimilmente lo è, e in alcuni casi è stato anche possibile documentare l'esistenza di queste cellule dei luoghi, di questi grid cells, in popolazioni umane però del tutto particolari e limitate in numero. Cioè ci sono dei pazienti che per ragioni mediche, cliniche, vengono sottoposti a registrazioni e impianti di microelettrodi in regioni ippocampali o della formazione ippocampale, e per questi pazienti è stato possibile, per esempio mentre navigavano in condizioni di realtà virtuale, effettuare registrazioni simili a quelle fatte con i ratti. Okay. E si è osservato l'esistenza di circuiti simili. Ecco, diciamo che non possiamo saperlo con certezza sugli umani, perché non possiamo fare esperimenti sugli umani, quelli che facciamo sui ratti. Sui qui ratti. Chiudiamo, perché sennò potrebbe essere abbastanza scivolosa. È un problema che ci ritroviamo costantemente. Giorgio Vallortigara, grazie e buona ricerca. Grazie, buon lavoro. Grazie, a presto. Cosa ha detto Nakamura quando ha ricevuto il Nobel per la fisica? Oh, che dolcezza, ha detto che era contentissimo ovviamente di aver ricevuto il premio, e che lui ogni volta che vede un LED è felice. Lui si commuove. E beh, perché in qualche modo gli si riempie il cuore della sua invenzione, no? Insieme a Hiroshi Amano, insieme a Isamu Akazaki, speriamo che siano giuste queste pronunce, c'è appunto anche Shuhi Nakamura, e sono i vincitori, tutti e tre giapponesi, vincitori del premio Nobel per la fisica. Insomma, è stato assegnato ai LED, alla luce LED. Difficilmente detto anche come dio di emissione, sì, di luce adesso, blu, insomma, adesso entriamo nel adesso dettaglio. Con chi c'entriamo? Qui con noi c'è Elisabetta Baldanzi, buonasera. Buonasera. Lei è ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze, e le diamo la parola intanto, insomma, un'introduzione su che cosa sono i LED. Esattamente, allora i LED sono delle sorgenti luminose che stanno prepotentemente entrando nel mercato dell'illuminazione. Come dice l'acronimo, il LED è un diodo in grado di emettere luce, e sono praticamente delle sorgenti completamente nuove rispetto a quanto già presente nel mercato dell'illuminazione, come ad esempio le sorgenti a incandescenza o le sorgenti a scarica. La novità sta nel fatto che quello che produce luce non è più un filamento di tungsteno oppure una scarica all'interno di un gas, ma è un piccolissimo chip che si trova appunto all'interno del LED, formato da un materiale semiconduttore, ossia un materiale che è in grado di far passare corrente o non farla passare a seconda delle condizioni ambientali. Tali che ci sono. Ecco, senta Baldanzi, potrebbe essere utile partire da una storia dell'illuminazione, no? Sì. La prima illuminazione è stata quella del fuoco, non ha preso il Nobel perché ovviamente era un po' troppo presto. Però lì cosa succede? Che incendiamo, no? Un pezzo di legno e produciamo il fuoco. C'è questo collegamento tra la sorgente di luce e il modo in cui questa viene prodotta. E per arrivare ai LED si continua a risparmiare, no? Nell'energia implicata. Esattamente, proprio questo. Praticamente la luce che io produco dipende esclusivamente dal modo in cui io sono riuscita ad ottenerla, per cui appunto ci sono le lampade a incandescenza, le prime a entrare, le sorgenti artificiali a entrare nel mercato, che hanno questo filamento di tungsteno, che però è un radiatore praticamente. Lui emette soprattutto nell'infrarosso, quindi produce soprattutto calore, e solo una piccola parte va nel visibile. Quindi l'efficienza luminosa, che è quel parametro che mi permette di capire, di calcolare quanta luce io vedo rispetto ai watt che impiego per alimentare la mia sorgente, quindi quanto vedo rispetto a quello che pago, certo, è un valore praticamente estremamente poco conveniente, perché io pago in una zona dello spettro che io non vedo. Questo non accade per i LED, ad esempio, dove siamo riusciti ad arrivare a un'efficienza luminosa record di 300 lumen su watt rispetto ai 10-15 della lampada incandescenza, ai 70, ai 90 delle lampade a scarica. Quindi io praticamente quello che pago lo utilizzo veramente per produrre luce e dunque per vedere. Perché tra il tungsteno, no, il filamento rosso della lampadina, e il LED c'è appunto il gas, no? Che anche qui però noi mettiamo energia dentro un gas e molta energia va a metterlo in moto. E poi si produce un po' di luce. È meglio del tungsteno, però abbiamo abbiamo sempre dei margini di miglioramento. Le lampade a scarica sono appunto delle lampade che hanno all'interno un'ampolla con del gas, ci sono un catodo e un anodo, quindi c'è un anodo, c'è una scarica all'interno di questo gas che appunto richiede abbastanza energia nel momento dell'accensione e appunto è in grado di produrre luce. Le sorgenti fluorescenti sono delle sorgenti a scarica, dove appunto la scarica del gas non è nel visibile, ma ci sono dei fosfori che praticamente rivestono il contenitore, che invece assorbano questa radiazione e rimettano nel visibile. In questo modo si ha uno spettro fatto un po' a barre, quindi ci sono delle zone dove la sorgente emette, delle zone che invece praticamente non c'è emissione di radiazione, e quindi appunto ho uno spettro che mi permette di avere delle efficienze anche luminose intorno ai 70-90 lumen su watt, ma ancora appunto non così buone come accade invece per i LED. Certo. Che adesso stanno arrivando nelle nostre strade. Infatti quello che stavo per chiedere è proprio questo, nel senso che nella motivazione in questi giorni si è parlato di luce blu, invece quella che noi vediamo sulle strade, che abbiamo in casa, è bianca. E allora Elisabetta, anche qui c'è qualcosa da spiegare. Esattamente, proprio perché il LED, appunto essendo un diodo che emette luce, praticamente per sua natura emette luce monocromatica, quindi c'è il LED blu, c'è il LED verde, rosso, giallo e così via. Di per sé lui non emette luce bianca, infatti la grande invenzione che ha avuto questo prestigioso riconoscimento è quella proprio del LED blu, perché era l'elemento mancante, quel tassello che mancava per ottenere la luce bianca, perché la luce bianca con i LED appunto non viene prodotta direttamente dal chip, ma utilizzando il LED blu ci sono fondamentalmente due metodi: o metto insieme il verde, il blu e il rosso, quindi tre LED differenti, e in questo modo ottengo luce bianca, sono i tre colori primari. E noi, dica se sbagliamo, ci ricordiamo delle torce o dei sistemi lampadine, che avevano tre lampadine di colore diverso, blu, verde e rosso, giusto? Esattamente, blu, verde e rosso, che insieme appunto mi danno il colore bianco, e infatti la luce bianca prodotta in questo modo ha una buona resa cromatica, cioè mi rende i colori piuttosto bene, però ha le complicazioni di avere tre elementi insieme all'interno di uno stesso apparecchio. Quindi appunto la luce bianca si può ottenere anche prendendo un LED blu e rivestendo con dei fosfori, che sono quelle solite polveri che assorbano la radiazione e ne riemettano poi una di nuova, e quindi appunto la luce bianca è formata dal LED blu che emette e da quella verde e rossa dei fosfori che assorbano il blu e riemettono appunto proprio nel verde e rosso. Ed è questa che luce bianca. È questa che sta arrivando nelle strade, mettono questo. Esattamente, infatti, quindi appunto il riconoscimento è stato proprio questo, che se non c'era il LED blu non ci sarebbe stata la luce bianca, e la luce bianca appunto dei LED adesso viene utilizzata veramente in tantissimi settori, perché presenta tutta una serie di vantaggi, ma di ordini di grandezza necessariamente migliori rispetto alle sorgenti passate, ad esempio appunto ha un'ottima efficienza luminosa, una lunga durata, si parla a livello nominale nominale di 100.000 ore contro le 1.000 circa dell'incandescenza, le 7.000 della fluorescente. Beh, proprio ordini di grandezza davvero elevati. Sì, sì, risparmio su tutto il fronte. Sono valori appunto ancora dai 100.000 ore abbastanza teorici, poi anche 50.000 ore, quelli più realistici, insomma già sono nettamente competitive rispetto a, appunto, alle sorgenti tradizionali. Sono molto piccole, quindi appunto focalizzate, permettono appunto applicazioni estremamente flessibili in tutti i tipi di ambienti, per cui appunto si cominciano a vedere anche all'interno degli ambienti interni, oppure nelle opere, nei musei addirittura, oppure appunto per l'illuminazione stradale. E appunto questo premio va proprio nella direzione, insomma, di avere un riconoscimento per un'invenzione che porta beneficio a tutta l'umanità, perché all'estremizzando possiamo pensare anche di portare luce in quelle zone della Terra dove attualmente non arriva la corrente, certo, elettrica, perché avendo un così basso consumo io posso caricarle di giorno attraverso dei pannelli solari e utilizzare poi l'energia raccolta la notte proprio per produrre luce. Chiarissimo. Ecco, qui la particolarità anche di questo premio, Nakamura, uno dei premiati, lo afferma in un'intervista e dice: mi sembra strano che mi abbiano dato il premio per un'invenzione, perché di solito viene assegnato ad una teoria di base, ad una ricerca molto di base, di teoria. Quindi è una cosa un po' diversa dal solito. Sì, esattamente, anche lo scorso anno fu dato appunto proprio a Higgs e Engel proprio per una ricerca teorica, mentre invece quest'anno è stata data proprio una ricerca sperimentale, proprio perché ci sono voluti 30 anni di esperimenti e di prove dagli anni 60 fino agli anni 90 per riuscire a ottenere il LED blu, per cui appunto la bravura di questi fisici è stata quella proprio, sì, di non demordere, di continuare a tentare e di osservare con attenzione quello che accadeva, di trovare degli elementi nuovi come il nitruro di gallio che hanno permesso poi appunto la realizzazione dei LED blu. Grazie Elisabetta Baldanzi. Grazie a voi. A buona presto, serata. In altre occasioni, buon lavoro. Molto volentieri, buon lavoro, grazie. Adesso noi si fa una pausa e poi arriva la chimica quotidiana con un pezzo di Nobel. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come si dice in questi casi? Due piccioni con una fava, nel senso che adesso noi abbiamo ospite Silvano Fuso, fra un po' lo salutiamo, che è un chimico per un suo bel libro, però ne approfittiamo immediatamente. Certo, per chiedere un commentino. Sul Nobel alla chimica, ok? Bene, allora buonasera e ben ritrovato a Silvano Fuso. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Lei è già stato nostro ospite perché lei è anche membro del CICAP, ci ha raccontato del malocchio, vi ricordate, di un sacco di cose, e questa volta vogliamo parlare del suo libro che è appena uscito, si chiama Chimica quotidiana, 24 ore nella vita di un uomo qualunque, poi ci entreremo, edito, sì, da Carocci, ma prima forse vogliamo chiederle proprio un commento su questo, sì, sviluppo, sì, della microscopia in fluorescenza. Senti, lasciamo perdere i nomi e gli, sì, istituti, perché va via mezz'ora, questo ve lo trovate voi su tutti i giornali, invece il tema, insomma, l'argomento, la ricerca che ha portato a questo Nobel riguarda la microscopia fluorescente. Ad altissima risoluzione. Esatto. Che cos'è? E dunque, si tratta di una scoperta veramente notevole, perché la microscopia ottica, quella che utilizza la normale luce visibile, ha un limite, in pratica non si può andare oltre ad una risoluzione di 0,2 micrometri a causa proprio della natura ondulatoria della luce stessa. La grossa scoperta appunto di coloro che sono stati insigniti per il premio, del premio Nobel per la chimica consiste nell'essere riusciti, per così dire, ad aggirare l'ostacolo, utilizzando una particolare tecnica che fa uso di molecole fluorescenti, si riesce a superare appunto questo limite di risoluzione, per cui si riescono ad ingrandire oggetti estremamente piccoli, quindi si passa dalla scala micrometrica alla scala nanometrica. Infatti qualcuno correttamente non parla più di microscopia bensì di nanoscopia. Certo. Giustamente. Siamo entrati in un altro mondo, perché lei diceva all'inizio la lunghezza d'onda della luce a volte, se andiamo nel molto piccolo, il piccolo è più piccolo di questa lunghezza, quindi, esatto, non possiamo vedere il problema. C'è proprio un limite fisico, diciamo, c'è un fenomeno fisico che si chiama diffrazione, per cui quando la luce incide su oggetti più piccoli non si riesce più a visualizzare, non in maniera si porta corretta via l'immagine, proprio, no? Esatto. Non ce la restituisce. Diciamo diciamo una cosa, diciamo che ingrandimenti così spinti era già possibile ottenerli con la microscopia elettronica, però con i microscopi elettronici, quando si tratta ad esempio di tessuti biologici, si alterano. Questi tessuti bisogna sottoporli a dei trattamenti particolari, cioè certo, vanno surgelati, praticamente vanno metallizzati, sì, per cui la microscopia elettronica non può essere impiegata in vivo. Invece la tecnica appunto per la quale sono stati insigniti del premio Nobel i tre ricercatori consente proprio di effettuare delle osservazioni ad alto ingrandimento anche in vivo. Questo è il grosso, diciamo, contributo rivoluzionario, se vogliamo, di questa tecnica. Ed è per questo che questi strumenti vengono utilizzati anche e hanno delle applicazioni molto importanti anche nella medicina. Esatto, abbiamo parlato qualche tempo fa a Mebius, perché l'Istituto Italiano di Tecnologia ha inaugurato un laboratorio con proprio questi microscopi. Infatti chi fosse interessato può trovare il nostro... Mi trovo occasione per fare una considerazione, se volete, un po' campanilistica, visto che io sono di Genova. Lei ha citato l'Istituto Italiano di Tecnologia, dove c'è appunto un gruppo di ricercatori che ha collaborato da anni con i tre attuali premi Nobel per la chimica. Quindi, se vogliamo, c'è un pochino di Italia e un pochino di Genova in questo premio Nobel. Lo sappiamo, lo sappiamo. L'Istituto Italiano di Tecnologia, proprio con questi argomenti, con Diaspro, che è coordinatore, esatto, di questo, sì, team, sì, è stato nostro ospite 3 o 4 settimane fa. Va bene. Veniamo al suo libro. Io direi di seguire un po' quello che è l'ordine anche che lei ha scelto per i suoi capitoli, perché c'è proprio il dipanarsi di una giornata di una persona, come dire, normale, di un lavoratore come potremmo essere io e Federico, che la mattina ci svegliamo. E lì già subito la chimica entra a far parte delle nostre vite. Perché? Perché ci svegliamo con quale strumento, Federico? Con la sveglia, però la chimica, io ho una sveglia che fa brin brin, non è che esplodo. Ecco, fuso. Sì, allora può sembrare strano, però anche in una sveglia c'è tanta chimica. Allora, se si tratta di una sveglia meccanica tradizionale, la chimica c'entra per i materiali con cui la sveglia è costruita, no? Se poi parliamo di sveglie elettroniche, qui chiaramente la chimica entra alla grande, perché sia che si tratti ad esempio di una sveglia a cristalli di quarzo, certo, con display magari a cristalli liquidi, oppure di una sveglia con display a LED. E ora, tutti questi dispositivi elettronici hanno una base chimica, perché i materiali con i quali sono costruiti chiaramente sono frutto della chimica, e ci sono degli interessanti aspetti proprio di carattere chimico-fisico che determinano il funzionamento di questi oggetti così di uso quotidiano. Magari non ci facciamo caso, però non ci avevamo mai pensato, in effetti. È una chimica che viene attivata, no? Per esempio i numerini che lei diceva, no? Che della, certo, viene attivata. I cristalli liquidi, ad esempio, certo, no? Sono frutto della ricerca chimica, perché i cristalli liquidi sono dei particolari materiali che appunto presentano delle caratteristiche intermedie fra i normali cristalli e i fluidi, invece i liquidi, che consentono appunto di ottenere applicazioni particolari, tra cui anche la comparsa appunto dei numerini che noi abitualmente vediamo quando semplicemente guardiamo l'ora nella nostra sveglia. Ecco, allora basta andare in qualunque posto di lavoro e siamo circondati di carta, insieme anche ai PC. Si diceva che i PC avrebbero evitato un sacco di carta, quello che viene fuori in realtà è esattamente l'opposto, che ne abbiamo bisogno di più. Anche qui fotocopie, per esempio, no? Toner. La carta stessa è un prodotto chimico, no? I trattamenti cui vengono sottoposti, non so, o gli stracci o il legno, chiaramente sono trattamenti chimici che sono finalizzati sostanzialmente a isolare la cellulosa da tutti gli altri componenti presenti nella materia prima originaria, tant'è vero che la carta è costituita sostanzialmente da cellulosa, e quindi qui la chimica entra nuovamente totalmente da padrone. Ecco. Negli stessi PC la chimica è presente in abbondanza, tutti i materiali che costituiscono i componenti elettronici di un PC, come dicevo prima a proposito anche delle sveglie, sono di origine chimica. E dunque, insomma, svolto il lavoro in redazione tra PC, stampanti e così via, arriva il momento della pausa pranzo. Io adesso sto seguendo proprio l'ordine dei capitoli del dottor Fuso, perché appunto riproduce proprio la giornata, e quindi è ora in qualche modo di andare al bar, in trattoria, insomma, a mangiarci qualcosa. E lì, diciamo che anche lì il mondo della chimica è praticamente onnipresente. Assolutamente sì, infatti a me fanno un pochino sorridere coloro che magari vorrebbero bandire la chimica dall'alimentazione, ma se noi bandissimo la chimica dall'alimentazione elimineremmo tutti gli alimenti, perché tutti gli alimenti hanno una base chimica. Non so, si possono fare molti esempi, ma io nel libro ne illustro qualcuno. Sì, se noi semplicemente ci facciamo una bistecca ai ferri, intervengono reazioni chimiche, in particolare una reazione che si chiama reazione di Maillard, dal nome dello studioso che l'ha identificata per la prima volta, che tra l'altro è la responsabile proprio, no, della crosticina gustosa che caratterizza, certo, la carne alla brace o il pane anche, come ci piace. Non so, un altro esempio può essere legato all'abitudine, no, che molti di noi hanno di mettere il limone sul pesce. Ah, certo. È una cosa che molti fanno magari senza neanche sapere perché, ma c'è una ragione chimica. Il pesce è molto buono, però l'odore forse non è dei più gradevoli. Questo odore caratteristico del pesce è dovuto ad una sostanza, si chiama trimetilammina, che è una sostanza basica. Il fatto di aggiungere il succo di limone, che è notoriamente acido, neutralizza questa trimetilamina e quindi diminuisce, no, l'odore tipico del pesce, che per qualcuno può essere poco gradevole. Qui dobbiamo andare un po' più veloci, nel senso che le storie all'interno del libro, i racconti sono tanti. Ovviamente lei racconta tutta la parte poi del pomeriggio di questa persona, della cena, ma noi andiamo subito al dopo cena per concludere, se sei d'accordo Federico, perché c'è un intero capitolo dedicato alla chimica intima, Fuso. Sì, io ho voluto appunto dedicare un capitolo a quella che ho chiamato chimica intima, che riguarda sostanzialmente i metodi contraccettivi e i farmaci per la disfunzione erettile. Pensiamo appunto alla contraccezione, alla pillola contraccettiva, e all'origine chiaramente ci sono tutte le ricerche di schiere di chimici, a cominciare da coloro che sono riusciti a sintetizzare i primi estrogeni, i primi ormoni femminili ampiamente utilizzati nella pillola contraccettiva. Il discorso analogo vale per i farmaci contro le disfunzioni erettili, il Viagra sostanzialmente, che ha avuto origine grazie appunto al contributo di ricercatori che sono riusciti a identificare particolari molecole che intervengono proprio nei meccanismi fisiologici dell'erezione. Lei si ricorda poi che quella scoperta fu abbastanza casuale, no? Fu abbastanza casuale, infatti la molecola che poi è stata commercializzata con il nome Viagra. In un primo tempo la si studiava con la speranza di curare disturbi circolatori tipo angina pectoris, ipertensione, eccetera. E una cosa abbastanza curiosa e anche divertente, cioè i soggetti che erano stati sottoposti in via sperimentale all'assunzione di questa nuova molecola avevano così un curioso effetto collaterale, cioè avevano un aumento della frequenza delle erezioni. Certo. E da lì i ricercatori hanno cominciato a pensare. Ci è venuta un'idea. Esatto, gli è venuta un'idea, e tant'è vero che poi hanno perfezionato questi studi e hanno dimostrato ampiamente l'efficacia di questa molecola per la cura, diciamo, delle disfunzioni erettili. I famosi effetti desiderati del bugiardino. I collaterali desiderati. Collaterale imprevisto soprattutto. Grazie Fuso, davvero io ricordo. Grazie il titolo. Voi per la cortesia. Il titolo del suo libro per gli ascoltatori, Chimica quotidiana, 24 ore nella vita di un uomo qualunque, Carocci di Grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Arrivederci, buon lavoro. E adesso torniamo all'alchimia del traffico. Sentiamo cosa ci dicono che accade sulle nostre strade. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Festival della Scienza di Bergamo c'è ogni anno, le date quest'anno sono dal 3 al 19, noi siamo a metà di questo percorso. Si è parlato al festival di denaro. Di denaro, di in realtà tecnologie legate alle banconote, ecco sì. Non per farle false. E noi abbiamo deciso di raccontarlo anche agli ascoltatori, perché ovviamente non potevamo raccontarvi tutto il festival, abbiamo selezionato qualche tema e quindi magari anche nelle prossime puntate ci sentirete raccontare del Festival della Scienza. C'è il sito, ma digitate Bergamo Scienze, trovate tutto il programma, ci sono ancora una. È quasi denso, sì. Ecco, allora entriamo nel vivo di questa conferenza che si è tenuta qualche giorno fa, La moneta tra tecnologia di carta e tecnologie digitali. Qui con noi stasera c'è Marco Benedetti, buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Lei lavora al Dipartimento di Informatica della Banca d'Italia e insomma è qui per raccontarci cose che probabilmente non conosciamo di questo strumento che invece utilizziamo in maniera più che quotidiana. Sì, nel contesto di Bergamo Scienza la Banca d'Italia ha deciso di far capire un pochino meglio qual è il legame che c'è tra le tecnologie e gli strumenti di pagamento e in particolare le banconote. Per fare questo abbiamo presentato un ebook, un libro interattivo che guarda un po' da vicino a come una banconota, una normale banconota in euro viene costruita, come poi verrà distrutta pure quando non servirà più, quali presidi di sicurezza ci sono dentro, quali tecnologie ci sono dentro e insomma per riuscire a fare quello che deve fare la banconota, cioè deve resistere agli stress della vita quotidiana, non si deve rovinare, no? Pensate se fosse un normale foglio di carta, certo. dopo una settimana sarebbe distrutto, invece resiste mesi, deve essere difficile da falsificare perché questa è una qualità effettivamente imprescindibile. Deve essere facile da riconoscere perché noi le riconosciamo senza nemmeno in realtà sapere perché così facilmente e così bene le riconosciamo, ma con un colpo d'occhio. Ecco, in realtà dietro ognuna di queste qualità c'è un sacco di tecnologia. E qual è la tecnologia? Lo andiamo a raccontare questo libro, lo abbiamo un pochino raccontato anche a Bergamo Scienza. E noi cercheremo di farglielo raccontare anche qua, diamo solo due indicazioni proprio basilari, l'ebook si chiama Una tecnologia di carta, è a scaricamento gratuito, insomma si può trovare per ora solo per tecnologia Apple, ma state pensando di ampliarla. Quindi veniamo ecco a tutte queste tecnologie legate alle banconote. Per esempio la robustezza, se andiamo indietro nel tempo gli italiani erano abituati con lo scotch a mettere insieme i pezzi della carta, era molto più fragile, invece adesso effettivamente questo non capita mai. Sì, diciamo il ciclo di vita medio di una banconota si è molto allungato con le nuove tecnologie di generazione della carta e in realtà esiste un intero laboratorio nella Banca d'Italia che di lavoro non fa altro che fare delle torture, degli stress test alle banconote, quindi si prendono delle banconote, si prendono anche poi separatamente gli ingredienti, cioè la carta e gli inchiostri, ma insomma uno ce lo immagina meglio con delle banconote e per giorni interi le si sottopone a torture che poi le si lavano in lavatrice, le si stirano con dei ferri a temperature particolari, le si espongono a delle radiazioni per vedere che succede agli inchiostri e tanto ci ha impressionato, diciamo, a noi del Dipartimento Informatica, quando pure noi per la prima volta siamo entrati in questi laboratori molto riservati, questo procedimento di tortura che nell'ebook di cui parlavamo c'è un filmato che è ispirato a una nota serie americana di un serial killer in cui viene torturato per un minuto una banconota per vedere che cosa succede. Ne esce viva o l'avete ammazzata? Ne esce viva, diciamo che l'obiettivo non è quello di renderla indistruttibile, che non è ovviamente economicamente possibile, ma è quello di renderla comunque riconoscibile qualunque cosa le sia successa, in maniera che si può andare in una filiale della Banca d'Italia con una banconota che ha subito qualunque incidente e farsela cambiare. Appena stampata. Ecco, ma questo però significa che la mescola di questa carta è segreta, insomma, no? Ci sono una serie di ingredienti sia negli inchiostri, sia nella carta, sia in altri presidi che ci sono dentro le banconote che non sono noti al grande pubblico, alcuni non sono noti nemmeno a me, cioè ci sono soltanto alcuni addetti delle banche centrali che li conoscono. È per questo che sono così, tra virgolette, sicure e difficili da falsificare, perché appunto oltre alla mescola, come dice Federico, ci sono tutta una serie di filigrane, inchiostri, veramente un ritrovato di tecnologia avanzatissima. Ma ci sono anche quei filetti elettronici. Sì, ci sono una serie di presidi che rendono difficile riprodurre con delle tecnologie più economiche da falsario una cosa equivalente. Per esempio la stessa catena di stampa prevede in realtà 5 tecniche di stampa diverse che, se uno va a guardare da vicino, producono dei risultati diversi: una cosa un po' a rilievo, una cosa invece riflette la luce di una mattina particolare. E per rifarlo uguale uno dovrebbe utilizzare queste 5 catene di stampa sovrapposte una all'altra, ma queste macchine, alcune di queste sono così grandi e costose che di fatto se ne vendono poche unità sul mercato nazionale e sono controllate peraltro, quindi la catena di stampa sofisticata, peraltro nel libro c'è anche un'applicazione nella quale uno può decidere di attivare e disattivare le varie fasi di stampa per vedere che cosa in una banconota è stato stampato, per esempio in calcografia piuttosto che in serigrafia, piuttosto che in flessografia, piuttosto che con la stampa a caldo, con la stampa offset. Cioè bisogna rendere la costruzione di un falso difficile, più costoso del falso prodotto. Esatto. Ecco, però una volta raggiunte fine vita, come diceva prima, certo la vita si è allungata, però poi che cosa succede? Come vengono distrutte? Le banconote in realtà nella circolazione, nella grande distribuzione della circolazione, ci sono le filiali della Banca d'Italia che sul territorio fanno questo lavoro automatico di verifica della qualità dei biglietti. Quando questa qualità scende sotto un certo livello, che non è però un livello di usura percepibile all'occhio umano, ma comunque è un livello di usura che inizia a essere percepito agli strumenti, queste banconote non vengono rimesse nella circolazione, ma vengono avviate alla distruzione, al riciclo, al recupero o sul territorio o centralmente a Roma, dove c'è un grande impianto. E sempre in questo ebook abbiamo anche documentato come avviene questa fase di distruzione delle banconote, che fine fanno. Ecco, però senta, e noi la macchinetta, quella che c'ha la luce viola per vedere se la banconota è falsa, insomma questa roba, cioè comunque però dei falsi ci sono in circolazione, sono molto approssimati e quindi ci si casca, oppure c'è qualcuno che gli va vicino? Allora, la luce viola a cui lei faceva riferimento è una luce ultravioletti e l'idea è che quando una banconota viene illuminata con luce ultravioletti invece che con la normale luce solare, si vedono delle cose diverse, alcune cose diventano invisibili che prima si vedevano, altre diventano visibili che prima non si vedevano. Peraltro sempre nell'ebook c'è un'applicazione in cui uno può decidere di gettare un fascio di luce ultravioletti in alcuni punti della banconota per vedere quali sono queste differenze. Cioè a un certo punto se la banconota viene illuminata da questa luce ultravioletta, esatto, appaiono delle immagini che ad occhio nudo non si vedrebbero. Delle piccole, delle caratteristiche, ci sono delle stelline che cambiano, ci sono delle cose che cambiano colore, delle altre come quelle, per esempio le fibrille che appaiono che in realtà non si vedrebbero, eccetera. Questo è un presidio di sicurezza come ce ne sono tanti, ma l'idea rispetto ai falsari è che mano a mano che i falsari diventano capaci di approssimare meglio alcuni di questi presidi poi nel tempo vengono anche cambiati, no? Per esempio la seconda serie dell'euro ha introdotto delle cose nuove proprio perché è per stare sempre, come si dice, un passo avanti ai falsari. Dopodiché il falsario che riesce a ingannare così l'uomo della strada, il cittadino, ci può essere, ma i falsi comunque si riconoscono, anzi proprio nel contesto di Bergamo Scienze la filiale della Banca d'Italia di Bergamo ha fatto un laboratorio nei locali della banca dove ha fatto vedere ai cittadini delle banconote vere e tante banconote false, gli ha fatto vedere qual era la differenza da riscontrabile o quanto buoni erano questi falsi, Proprio perché, come diceva lei, le tecnologie sono sempre più avanzate e per questo anche la moneta è un po' al passo coi tempi, cioè vi viene richiesto di aggiornarle in maniera abbastanza costante. Adesso noi abbiamo ad esempio in mente le 10 euro che sono appena state trasformate, sono arrivate diffuse proprio in questa settimana. Ecco, lì è una scelta dovuta, non so, dalla comunità europea dal punto di vista, dell'estetico o anche dal punto di vista tecnologico? Allora, l'aggiornamento delle banconote, sebbene uno lo veda, se ne accorga in capo una settimana, cioè si inizia a dire al telegiornale usciranno nuove banconote e dopo un mese ce l'abbiamo, in realtà è un processo molto lungo perché si parte con lo studio, si fanno dei concorsi per decidere quale disegnatore farà i nuovi disegni, magari le varie banche centrali partecipano, ognuno con un suo disegno e qualcuno vince, e poi si decide quali elementi di sicurezza togliere perché ormai garantiscono troppo poca sicurezza rispetto a quello in più che danno e quali invece nuovi mettere, quindi è un processo che dura anche anni, c'è l'aspetto estetico, ma c'è anche l'aspetto tecnologico. C'è l'aspetto tecnologico e c'è ovviamente una rilevazione costante che le banche centrali fanno dei falsi, quali sono i falsi, quali sono le presidi di sicurezza che sono stati più frequentemente attaccati, quali sono i presidi che hanno perso di valore e quelli che lo mantengono, e quindi si decide che cosa e perché fare una nuova serie dell'euro. È un processo molto lungo. Però il driver principale è quello di una sicurezza, diciamo, costante. Man mano che i passanti diventano più bravi, le banconote diventano più difficili da falsificare, per mantenere questa differenziale sostanzialmente. Ok, allora ricordiamo il titolo dell'ebook sul quale potete trovare tutte queste informazioni e anche video e applicazioni. Una tecnologia di carta è gratuito, quindi scaricabile da iTunes. Grazie Benedetti, davvero buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro, arrivederci. Mi sa che con le banconottine che abbiamo io e te abbiamo fatto in cucina. Non siamo dei bravi falsari, no, troppo dobbiamo difficile. Non metterli in circolazione. Va bene, è finita. Nebius è finito per questa settimana, ci sentiamo fra 7 giorni, buona settimana a tutti. E a tutte, ciao!